Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Com'egli levava gli occhi, Elena gli offerì la tazza fumante, con un sorriso un poco velato dalla lacrima. Vide egli quel velo, e innanzi a quell'inaspettato segno di tenerezza, fu invaso da un tale impeto d'amore e di riconoscenza che posò la tazza, si inginocchiò, prese la mano di Elena, sopra vi mise la bocca. Elena, Elena, le parlava a voce bassa, in ginocchio, così da vicino che pareva volesse beverne l'alito. L'ardore era sincero, mentre le parole talvolta mentivano. Egli l'amava, l'aveva sempre amata. Non aveva mai, mai, mai potuto dimenticarla. Aveva sentito, rincontrandola, tutta la sua passione insorgere con tal violenza che n'aveva avuto quasi terrore, una specie di terrore ansioso, come se gli avesse intravisto in un lampo lo sconvolgimento di tutta la sua vita. «Tacete, tacete!» disse Elena con il volto atteggiato di dolore, pallidissima. Andrea seguitava sempre in ginocchio, accendendosi nell'immaginazione del sentimento. Egli aveva sentito trascinar via da lei, in quella fuga improvvisa, la maggiore e migliore parte di sé. Dopo egli non sapeva dirle tutta la miseria dei suoi giorni, l'angoscia dei suoi rimpianti, l'assidua, implacabile, divorante sofferenza interiore. La tristezza cresceva rompendo ogni diga. Egli ne era sopraffatto. La tristezza era per lui in fondo a tutte le cose. La fuga del tempo gli era un supplizio insopportabile. Non tanto egli rimpiangeva i giorni felici, quanto si doleva dei giorni che ora passavano inutilmente per la felicità. Quelli almeno gli avevano lasciato un ricordo. Questi gli lasciavano un rammarico profondo, quasi un rimorso. Andrea mentiva, ma la sua eloquenza era così calda, la sua voce era così penetrante, il tocco delle sue mani era così amoroso che Elena fu invasa da una infinita dolcezza. «Taci!» ella disse. «Io non devo ascoltarti. Io non sono più tua, io non potrò essere tua più mai. Taci, taci!» «No, ascoltami! Non voglio, addio! Bisogna che io vada, addio, Andrea! È già tardi, lasciami!» Ella sviluppò la mano dalla stretta del giovane e, superando ogni interno languore, fece atto di levarsi. «Perché dunque sei venuta?» chiese egli con la voce un po' roca, impedendole quell'atto. Sebbene la violenza fosse lievissima, ella corrugò i sopraccigli ed esitò prima di rispondere. «Son venuta», ella rispose con una certa lentezza misurata, guardando l'amante negli occhi, «son venuta perché tu m'hai chiamata, per l'amore di una volta, per il modo con cui quell'amore fu rotto, per il lungo silenzio oscuro della lontananza. Io non avrei potuto senza durezza ricusare l'invito. E poi io volevo dirti quel che t'ho detto, che io non sono più tua, che non potrò essere tua più mai. Volevo dirti questo lealmente, per evitare a me e a te qualunque inganno doloroso, qualunque pericolo, qualunque amarezza nell'avvenire. Hai inteso?» Andrea chinò il capo quasi sulle ginocchia di lei, in silenzio. Ella gli toccò i capelli col gesto un tempo familiare. E poi seguitò, con una voce che mise lui un brivido in tutte le fibre. «E poi voleva dirti che io ti amo non meno di una volta, che ancora tu sei l'anima dell'anima mia, e che io voglio essere la tua sorella più cara, la tua amica più dolce, hai inteso?» Andrea non si mosse. Ella, prendendo le tempie di lui fra le sue mani, gli sollevò la fronte, lo costrinse a guardarla negli occhi. «Hai inteso?» ripeté con una voce anche più tenera e più sommessa. Tu non mi amavi. Tu non mi ami. Dopo una lontananza così lunga, piena di misteri, muta e inesorabile, dopo una così lunga attesa in cui ho consunto il fiore della mia vita a nutrire una tristezza che m'era cara perché mi veniva da te, dopo tanta felicità e dopo tanta sciagura, ecco, tu rientri in un luogo vivo e mi dici soavemente: io non sono più tua, addio. Ah, tu non mi ami. Ingrato, ingrato, esclamò Elena ferita dalla voce quasi irosa del giovane. Che sai tu di quel che è accaduto, di quel che io ho sofferto, che sai? Io non so nulla, io non voglio nulla sapere, rispose Andrea duramente, involgendola ad uno sguardo un po' torbido, in fondo a cui tralucevano i suoi desideri esasperati. Che fa a me la tua pietà di sorella? Tu, contro il tuo volere, me la offri guardandomi con occhi d'amante, toccandomi con mani malsicure. Troppe volte ho veduto i tuoi occhi spegnersi nel gaudio, troppe volte le tue mani m'han sentito rabbrividire. Io ti desidero! Incitato dalle sue stesse parole, egli la strinse forte tra i polsi ed appressò la sua faccia a quella di lei, così che ella ebbe in sulla bocca il caldo alito. Io ti desidero come non mai, seguitò egli cercando d'attirarla al suo bacio, circondandole con un braccio il busto. Ricordati, ricordati. Elena si levò, respingendolo. Tremava tutta. Non voglio, intendi? Egli non intendeva. Si riavvicinava ancora con le braccia tese per prenderla, pallidissimo, risoluto. Soffriresti tu, gridò ella con voce un po' soffocata, non potendo patire la violenza. Soffriresti tu di spartire con altri il mio corpo? Ella aveva proferita quella domanda crudele, senza pensare. Ora con gli occhi molto aperti guardava l'amante, ansiosa e quasi sbigottita, come chi, per salvarsi, abbia vibrato un colpo senza misurare la forza e tema di aver ferito troppo nel profondo. L'ardore di Andrea cadde d'un tratto e gli si dipinse sul volto un dolor così grave che la donna n'ebbe al cuore una fitta. Andrea disse dopo un intervallo di silenzio: addio. In quella sola parola era l'amarezza di tutte le altre parole che gli aveva ricacciate indietro. Elena rispose dolcemente: addio, perdonami. Ambedue risentirono la necessità di chiudere per quella sera il colloquio periglioso. L'uno assunse una forma di cortesia esteriore quasi esagerata, l'altra divenne anche più dolce, quasi umile, e l'agitava un tremito incessante. Prese ella di sulla sedia il suo mantello. Andrea l'aiutò con maniere premurose. Come ella non giungeva a mettere un braccio in una manica, Andrea la guidò, appena toccandola. Quindi le porse il cappello e il velo. Come fu pronta, ella disse: sarà molto tardi. Non molto. Saranno le 6, forse. Io ho licenziata la mia carrozza, ella soggiunse. Vi sarei tanto grata se mi faceste prendere una vettura chiusa. Permettete che io vi lasci qui solo un momento? Il mio domestico è fuori. Ella assentì. Date voi stesso l'indirizzo al vetturino, vi prego. Albergo del Quirinale. Egli uscì, chiudendo dietro di sé la porta della stanza. Ella rimase sola. Rapidamente volse gli occhi intorno. Abbracciò con uno sguardo indefinibile tutta la stanza. Si fermò alle coppe dei fiori. Le pareti le sembravano più vaste. La volta le sembrava più alta. Guardando, ella aveva la sensazione come di un principio di vertigine. Non avvertiva più il profumo, ma certo l'aria doveva essere ardente e grave come in una serra. L'immagine di Andrea le appariva in una specie di balenio intermittente. Le suonava negli orecchi qualche onda vaga della voce di lui. Stava ella per aver male. Pure che delizia chiudere gli occhi e abbandonarsi a quel languore. Scotendosi andò verso la finestra, l'aprì, respirò il vento. Rianimata si volse di nuovo alla stanza. Tutte le cose intorno esalavano una melanconia indistinta che affluiva e s'addensava al cuor della donna. Il peso cresceva su quel debole cuore, diveniva un'oppressione dura, un affanno insopportabile. Ella aspettò, seduta sul divano, cercando di quietare la folle agitazione, evitando di guardarsi nell'anima, forzando la sua attenzione alle cose esteriori. Attirarono i suoi occhi le figure vitree del parafuoco, appena illuminate dai tizzoni semispenti. Più sopra, sulla sporgenza del caminetto, da una delle coppe cadevano le foglie di una grande rosa bianca, che si disfaceva poco a poco, languida, molle, con qualche cosa di femminino, direi quasi di carnale. Le foglie concave si posavano delicatamente sul marmo, simili a falde di neve nella caduta. Quanto allora pareva soave alle dita quella neve odorante, ella pensò. Tutte sfogliate, le rose cospargevano i tappeti, i divani, le sedie, ed ella rideva felice in mezzo alla devastazione, e l'amante felice erale ai piedi. Ma udì fermarsi una carrozza dinanzi alla porta, nella strada, e si levò, scotendo la povera testa come per cacciar via quella specie di ottosità che la fasciava. Subito dopo rientrò Andrea, ansante. «Perdonatemi», disse, «ma non avendo trovato il portiere sono sceso fino in Piazza di Spagna. La vettura è giù che aspetta». «Grazie», fece Elena guardandolo timidamente attraverso il velo nero. Egli era serio e pallido, ma calmo. «Mumps arriverà forse domani», soggiunse ella con una voce tenue. «Vi scriverò un biglietto per dirvi quando potrò vedervi». «Grazie», fece Andrea. «Addio dunque», e la riprese tendendogli la mano. «Volete che vi accompagni fin giù alla strada? Non c'è nessuno». «Sì, accompagnatemi». Ella guardavasi attorno un poco esitante. «Avete dimenticato nulla?» chiese Andrea. Ella guardò i fiori, ma rispose: «Ah sì, il portabiglietti». Andrea corse a prenderlo sul tavolo del tè. Porgendolo a lei disse: «A stranger hither». «No, my dear, a friend». Elena pronunciò questa risposta con la voce molto animata, vivacemente. Poi d'un tratto, con un sorriso tra supplichevole e lusinghevole, misto di temenza e di tenerezza, su cui tremolò l'orlo del velo che giungeva fino al labbro superiore, lasciando tutta libera la bocca, «Give me a rose». Andrea andò a ciascun vaso e tolse tutte le rose stringendole in un gran fascio che gli a stento reggeva fra le mani. Alcune caddero, altre si sfogliarono. «Erano per voi, tutte», egli disse senza guardare l'amata. Ed Elena si volse per uscire, col capo chino, in silenzio, seguita da lui. Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare d'eletta cultura, d'eleganza e di arte. A questa classe, che io chiamerei arcadica, perché rese appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle delicatezze, la predilezione per gli studi insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata, erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Il conte Andrea Sperelli Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era, in verità, l'ideal tipo del giovin signore italiano nel XIX secolo, il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l'ultimo discendente di una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò fino a 20 anni le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e costrizioni di pedagoghi. Dal padre, appunto, ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo dei pregiudizi, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere. Aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s'era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione di Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri, quanto in cospetto delle realtà umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento. E in lui la curiosità diveniva più acuta e più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé, poiché la grande forza sensitiva onde egli era dotato non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansione di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere, ed egli non si accorgeva che la sua vita era riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia, e che il circolo gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente, sebbene con lentezza. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. Anche il padre ammoniva: bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebbrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: abere, non aberi. Anche diceva: il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto, occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criteri morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo cioè la cui potenza volitiva era debolissima. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea: il seme del sofisma. Il sofisma, diceva quell'incauto educatore, è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere, o il proprio dolore. Forse la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto sono nascoste inesauribili ricchezze. I greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofisti fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco in Andrea la menzogna, non tanto verso gli altri quanto verso se stesso, divenne un abito così aderente alla coscienza che gli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso il libero dominio. Soul.